informazione. Radio Wax. Controinformazione, letture, provocazioni, musica. Radioazione, punto, punto. Informazione, letture, provocazioni, musica. Radioazione. Radioazione. Controinformazione, letture, provocazioni, musica. Radioazione.org. Radioazione. Radioazione. Radioazione. Grubstahl! Radiazione, diretta d'azione venerdì 4 luglio, oggi diretta d'azione che vedrà controinformazione, solo la controinformazione, qualche riflessione se ci avremo voglia di farla con questo caldo, la musica è tanto caldo, per l'appunto. Sto col ventilatore attaccato, appiccicato all'orecchio, quindi se sentite un è il ventilatore, purtroppo non ci abbiamo mezzi migliori per rinfrescarci. Allora ricordiamo subito gli indirizzi di radiazione, radiazione@autistici.org per chi vuole mandare scritti, comunicati, mail, giornali da far pubblicare online, iniziative, insomma tutto quello che può essere pubblicato sul sito di radiazione potete mandarlo alla mail sito di radiazione, che è radiazione@radiazione.org, dove potete leggere la controinformazione aggiornata quotidianamente, dove potete scaricarvi un po' di materiale attraverso il download e riascoltare le dirette di azione sia attraverso podcast che quella in diretta attraverso il flash player oppure il banner che trovate ogni giorno della diretta in home page. La radio trasmette su serveranarchia.net, messa a disposizione dal compagno di Anarchist Library che noi salutiamo sempre. E allora, dicevo, oggi la controinformazione, oggi sarà una diretta un pochino più striminzita, un'oretta e mezza massimo, non più di tanto, perché c'ho da fare i cazzi mia, e quindi un'oretta e mezza basta, anche che con questo caldo basta e avanza. E allora dicevo, oggi solo controinformazione, invece l'appuntamento con la lettura è per lunedì. Stiamo leggendo I Sabotatori di Edward Abbey, lo ricordo ancora una volta, stiamo quasi finendo di leggere I Sabotatori, forse altre tre dirette e poi ci togliamo da coglioni, non ci ascolterete più per un paio di mesi, non si va in vacanza ma fa troppo caldo. Allora, ora ci ascoltiamo un brano RTPN con il brano Awakening e poi dopo si torna qua e si inizia la diretta d'azione con la prima notizia di controinformazione della giornata. We'll be right back. E qui si erano RTPN con il brano Awakening. Ora, come detto, iniziamo questa diretta d'azione, questa lunga diretta d'azione che durerà un'ora e mezza, ma lunga per il caldo, sto morendo. Allora, sto abbracciato alla bottiglia d'acqua fredda che mi sono messa nel freezer e quindi vi lascio immaginare. Allora, la prima notizia di controinformazione della giornata è una rivendicazione. Noi cerchiamo sempre di partire bene con le dirette, partendo con il sorriso sulle labbra. Un'azione diretta avvenuta in Grecia, ad Atene, dove sono stati incendiati 4 veicoli in una concessionaria di auto Skoda. Leggiamo il testo rivendicativo. Uno sciopero della fame di massa è iniziato nella maggior parte delle carceri del paese lunedì 23 giugno. In questo modo i prigionieri stanno combattendo contro il nuovo disegno di legge per la creazione di carceri di massima sicurezza e la ristrutturazione e inasprimento del codice penale. La creazione di carceri di massima sicurezza completa il puzzle della repressione sistematicamente strutturatosi negli ultimi anni, quando la maschera del paradiso consumistico è calata e si sono distolte le allucinazioni del corpo sociale per una vita tranquilla, il dominio ha mostrato il suo vero volto. È stato il momento in cui il fiato dell'agitazione sociale ha accarezzato il collo del potente e le grida degli sfruttati ai margini della società sono echeggiate pericolosamente alle sue orecchie. Lo Stato e gli interessi che difende non potevano lasciare impuniti coloro che hanno osato mettere in discussione la sua onnipotenza attraverso l'azione, coloro che guardano oltre le forme della vita sterilizzata che ci vuole seguire i loro sogni. Quindi la necessità di creare carceri di massima sicurezza è inclusa nel contesto della repressione intensificata a più livelli che ci troviamo di fronte negli ultimi anni. Quelle tombe di cemento allo scopo di fungere da deterrente preventivo all'attacco contro ciò che opprime di coloro che soffocano dentro le moderne città di cemento e di punire i prigionieri insubordinati che si ribellano e combattono gli spogliatori dei loro sogni. I seguenti pensieri sono dedicati a quei prigionieri insubordinati e indomabili che hanno scelto lo sciopero della fame come strumento di resistenza contro la furia disumana e vendicativa dello Stato e dei suoi meccanismi, per coloro che rifiutano la morte prestabilita e restano vivi, per coloro che camminano decisi e aggressivi per le strade dell'inazione sociale, per coloro che gustano il senso della delinquenza e flirtano con l'illegalità, per i combattenti risoluti di oggi, qui e ora, ribelli senza compromessi e conflittuali. A voi che la diffusa violenza autoritaria non è riuscita a piegare, ma vi siete uniti al lato ribelle della vita insurrezionale fino alla fine. Questo è il motivo per cui nelle prime ore di lunedì 30 giugno abbiamo dato alle fiamme 4 veicoli della concessionaria di auto Skoda nella zona di Gerakas, come un piccolo gesto di solidarietà con lo sciopero della fame di massa dei prigionieri. chiediamo l'acquisto e l'innalzamento di azioni multiforme contro la votazione del disegno di legge per le carceri di massima sicurezza nei prossimi giorni. Forza alla lotta degli scioperanti della fame, niente è finito, tutto continua, fuoco alle carceri in ogni angolo del mondo, banditi coscienti. E questa è una traduzione, ci avevano fatto vedere compagni di Croce Nera, siccome non c'avevano tempo per aggiornare il sito, l'hanno passata prima a me e quindi è stata pubblicata. Ricordo invece che lo sciopero della fame già da lunedì scorso è terminato, e dopo leggeremo anche un comunicato scritto dai detenuti, da una parte di detenuti che portavano avanti lo sciopero. Non è uno scritto di compagni, è uno scritto di detenuti comuni. Ora ci ascoltiamo un brano, loro sono Balkanski and the Loop Steelworker, il brano è Fire, e poi dopo si torna qui e ancora controinformazione. We'll be right back. Questi erano Balkaski and Luxembourg con il brano Fire. Ora si torna alla controinformazione. Abbiamo letto poco fa la rivendicazione in solidarietà con gli scioperanti della fame in Grecia, lo sciopero che molti detenuti stavano portando avanti da 23, da 26 giugno, non mi ricordo ora la data, contro il disegno di legge che prevede la costruzione delle carceri di tipo C, sarebbero carceri di massima sicurezza, che ancora non ho capito se sono molto simili a quelle tipo S2 che sono in Italia, oppure qualcosa di più, visto che anche i compagni continuano a parlare di Guantanamo. Ora vediamo, anche i detenuti parlano di Guantanamo in questo annuncio. Leggiamo questo annuncio: sospensione dello sciopero della fame. Oggi martedì 1 luglio sospendiamo lo sciopero della fame di massa che avevamo iniziato contro la legge sulle carceri di massima sicurezza. Sospendiamo lo sciopero della fame, ma non finiamo la nostra mobilitazione. Al contrario, stiamo riconquistando i nostri poteri e avvertiamo il Ministero che non accetteremo la messa in funzione della Guantanamo greca a Domokos o dovunque. Rimaniamo sospettosi verso le proposte di miglioramento del Ministero che saranno depositate giovedì e siamo pronti, se necessario, a combattere con ogni mezzo per far cancellare la legge e anormalità per le carceri di massima sicurezza. Sappiamo che nulla sarebbe stato migliorato se non avessimo fatto lo sciopero della fame, ma il Ministero dovrebbe sapere che contro il silenzio organizzato dei mass media che hanno nascosto il grande sciopero della fame, 4.500 prigionieri in sciopero della fame, da ora in poi cambiamo i mezzi di lotta e se necessario continueremo con forme più forti di resistenza. Un essere intelligente capirà. Iniziativa della Commissione di lotta in carcere. E questo era l'annuncio dei detenuti che fanno sapere della fine dello sciopero della fame. Invece parliamo di un aggiornamento, rimaniamo sempre in Grecia, un aggiornamento per quanto riguarda il processo ai compagni riguardante il progetto Fenice. Oggi mercoledì 2 luglio c'è stata la seconda udienza del processo sul progetto Fenice. I 12 imputati, Andreas Tsardaritis, Spiros Mandilas e i 10 membri detenuti delle CCF, non si sono presentati in tribunale perché stanno recuperando ancora dallo sciopero della fame di 8 giorni a cui hanno partecipato contro il disegno di legge per le carceri di massima sicurezza. Hanno anche chiesto di non essere rappresentati da un avvocato. Ricordiamo che il processo è iniziato il 4 giugno e che riguarda tre atti del progetto Fenice, il numero 1, il 2 e il 4. Il processo è stato rinviato a mercoledì 16 luglio, non un millimetro indietro, ma 9 mm nelle teste degli sbirri. E questo è il comunicato che arriva sempre dalla Grecia, preso da Interarma, sito dei compagni greci, che ci avvisano, che ci aggiornano sul progetto, sull'andamento del processo per il progetto Fenice. Lo ricordo che su Radiazione è stato pubblicato il video, sono stati tradotti i sottotitoli. Chi se lo vuol vedere, se lo può vedere direttamente dal sito, oppure chi vuole una qualità un pochino migliore può scrivere a Radiazione, così gli si manda sia il video che il file con i sottotitoli nel caso qualcuno li voglia modificare, tradurre in altre lingue o farne altro. Non lo so cosa si può fare con il file dei sottotitoli oltre che a tradurlo in altra lingua o modificarlo. Allora, queste erano per quanto riguarda questi altri due aggiornamenti dalla Grecia. Ora ci ascoltiamo un brano, loro sono Santa It's You con il brano Rise, e poi dopo si torna qui e ancora controinformazione. Let's go. I can't collide. You stay in. oggi. E questi erano Santa Ezio con il brano Rice. Ora si cambia posto. Siamo partiti e siamo rimasti ancora in Grecia. Io ci andrei più che starmene qui nella stanzetta con l'aria viziata e l'inferno del caldo, me ne andrei in Grecia, ci sarei ben volentieri in Grecia. Invece qua a soffrire. Però ci rinfreschiamo con l'immaginazione andando in Europa, all'Europa del nord, a Berlino, in Germania, dove ci sono degli attacchi contro le società di sicurezza e militari. Quindi continuano ancora i berlinesi a portare avanti questi attacchi contro queste agenzie di sicurezza nella città, non solo di Berlino, ma abbiamo visto anche molto spesso a Lipsia e qualche altra parte della Germania. Allora, leggiamo il testo rivendicativo. Nella Hermann Piper Strasse a Berlino abbiamo depositato un congegno incendiario sotto un'auto di Gegenbauer nella Berliner Halle e rotto dei vetri nella Commerzbank. Continuando così la nostra linea di azione contro il militare e l'architettura di sicurezza. Qui ci voleva Marcello perché è strapieno di nomi in tedesco, però spero di riuscirle a leggere un pochino meglio. Gegenbauer, una ditta con sede a Berlino e numero di impiegati nelle decine di migliaia, cifre d'affari milionarie, facility management integrale, a prima vista suona interessante ed è in maggioranza degli ambiti neanche tanto problematico. Gli ambiti dei servizi di sicurezza, come anche le esperienze fino ad ora fatte, ci hanno tuttavia allertati. Non si può accusare Gegenbauer nella sua lunga storia di aver partecipato all'imprigionamento della società. Ma quel che tuttavia fanno è lo spostamento flessibile di capitali in certi ambiti dell'impresa per aumentare i profitti di questi ambiti. In questo contesto, le prestazioni nel campo della sicurezza fondite da Gegenbauer non sono fisse, ma sempre sensate ad essere ampliate. L'ambito della vigilanza aziendale, pattugliamento, servizi di vigilanza distrettuale, pattuglie cittadine nell'ambito dell'economia abitativa, tutto questo suona come un'ulteriore sberraglia e lo è, infatti. La continua crescita dell'insicurezza economica e perciò anche sociale degli individui porta alla reazione securitaria dei possidenti. Una reazione che vuol proteggere le loro proprietà. Nulla di male, in fondo, se non si trattasse di condizioni di proprietà capitalistiche. Stando così le cose, si protegge ciò che è stato rapinato. È protetto quel che solo con le porcate è stato ottenuto, è protetto senza che sia in pericolo, ma a causa della paranoia dell'insicurezza. Gegenbauer non si deve neanche descrivere astrattamente ed affrontare con un'analisi più mediocre che buona sulla paranoia securitaria odierna. Bastano ed avanzano alcuni esempi pratici. Gegenbauer come strangolatore di movimenti sociali. Il personale di Ben Gegenbauer si fece in quattro per strappare agli attivisti lo striscione. A me viene da ridere. Quando durante la settimana verde erano saliti su di un camion, un'azione pure pericolosa ad un'altezza di 3 metri. Durante un'azione di disturbo contro Air France KLM e trasporto animali, gli attivisti furono davvero maltrattati. Accorsero anche per un'azione di contrasto antimilitarista verso ILA, dove tentarono di strappare aggressivamente i nastri di sbarramento usati per l'azione. Questi esempi dimostrano la brutalità con la quale Gegenbauer ripristina la sicurezza. Ripristinarla significa zittire le istanze giuste e legittime dei movimenti per la liberazione animale e antimilitarista, affinché il monopolio del pensiero torni ai pieghevoli in carta patinata e alle pagine web degli organizzatori degli eventi. Ci reca disagio sapere quale potere esercitano contro la gente che non può o vuole esprimersi nel nostro cambiamento. Così Gegenbauer è attiva per esempio anche per realizzare il processo di sfollamento attorno alla gentrificazione di Marienplatz. Solidarizziamo qui esplicitamente con le persone nominate e non, che sono vittime di Gegenbauer. Commerzbank. che sarebbe l'ultimo, l'altro posto che è stato attaccato, vogliamo salutarla con un'umile rottura di vetri, visto che come la Deutsche Bank partecipa alla SICO, conferenza sulla sicurezza. Anche qui, di nuovo, visti i ripetuti investimenti militari della CB, non esiste più alcuna presunzione di innocenza, quando oltretutto partecipa alla SICO. Ovviamente non conosciamo alcunché del proposito di esternazione della banca, ma questo dimostra solo il carattere non partecipativo e segreto di tale conferenza. Occasionalmente diremo di più, poiché la lotta continua. Gruppo informale. E questa era la notizia tradotta invece da Marco Kamenisch, che l'ha fatta avere ad altri compagni di un altro sito, sotto trovate la fonte. Allora, questa era la rivendicazione tedesca, no, rido perché stavo pensando all'azione che è stata bloccata da quelli della Gegenbauer. Beh, quando io dico che l'anarchismo è un tantinello diverso dall'Italia ad altre nazioni, per l'appunto questo, non solo dall'Italia, è diverso anche dalla Grecia con la Germania. Diciamo che la Germania fa un attimo mondo a parte, insieme all'Inghilterra, insieme agli Stati Uniti e all'est europeo per quanto riguarda l'anarchismo. I francesi pure non ci scherzano, ora mi faccio odiare un po' mondialmente, però pariamoci un po' il culo senza fare i paraculi abbastanza, no vabbè, non andiamo oltre queste cose, già l'abbiamo detto molte volte, ho scritto anche delle riflessioni sui diversi modi di interpretare l'anarchismo. Ora ci ascoltiamo un brano perché fa caldo e quindi ho bisogno di ribere ancora una volta. Loro sono Numba, il brano è Cash, e poi dopo si torna qui e ancora controinformazione. Allora, questi erano Numb con il brano Cash. Leggiamo ora, andiamo avanti con la controinformazione. Penso che non si arriva nemmeno alle 6:30, penso che a massimo un quarto d'ora, 20 minuti e chiudiamo pure la diretta, perché c'è l'inferno, quindi se non volete una morte in diretta, io continuo un cazzo, non do la soddisfazione di vedermi morto stecchito. Questa è la morte che auguriamo a chi lavora in ufficio ed ascolta la radio in qualche ufficio dove c'è bisogno di quelle divise blu o nere, insomma. Allora, dicevo, andiamo avanti con la controinformazione con altri due brevi notizie che arrivano, una dalla Francia e un'altra dal Cile. Quella dalla Francia arriva da Pantin 93, dove è stato incendiato un mezzo della società costruttrice di carceri. Leggiamo il microtesto rivendicativo: nella notte tra il 23 e il 24 giugno a Rue Auger a Pantin, penso che si legga così, altrimenti andatevelo a leggere voi, un camion appartenente a una nota società costruttrice di carceri è andato in fiamme. Saluti in solidarietà con gli anarchici Carlos, Amelie e Fallon imprigionati in Messico e a Mario e Felicity in fuga. Fuoco alle carceri insieme ai loro costruttori. E questa era per quanto riguarda la notizia dalla Francia. Invece da Cile ci arriva la sentenza contro i compagni detenuti per il caso Security. Allora, siccome non funziona proprio come qui in Italia, spieghiamo. Praticamente il 16, 12, mi ricordo, c'è stato la sentenza per il caso Security, che vede coinvolto i tre compagni a Juan Alliste, Freddy Fuentaville e Marcello Villarroel, per quanto riguarda il caso Security, che ricordiamo ancora una volta, il caso Security prende il nome dal banco Security dove nel 2007 ci fu una rapina in cui durante la quale ci fu anche uno scontro armato con le forze dell'ordine e un pezzo di merda, un paco come lo chiamano da quelle parti, finì stramazzato a terra, un altro ferito, e quindi per questo le autorità, la gendarmeria cilena aveva innalzato subito il livello d'attenzione e aveva fatto minacce serie a chi era stato, già sapevano a chi dovevano andare a rompere i coglioni, però cioè, hanno fatto di tutto in quel primo periodo con affermazioni belle pesanti, tanto molto coerenti con quella che era la dittatura di Pinochet, cioè in stile Pinochet, diciamolo chiaro e tondo. E quindi dicevo, il 12 o il 16, non mi ricordo ora la data, c'è stata la sentenza, però prevede che vengono confermati solo i capi di imputazione, quindi dicono sì, sei condannato perché sei accusato di questo, gli anni di carcere te li dicono 20 giorni dopo. Infatti ora arriva la sentenza per caso Security. Oggi 2 luglio 2014, i compagni sono stati condannati in contumacia visto che hanno rifiutato di partecipare al circo giuridico in teleconferenza per le famiglie e compagni. L'Inquisizione democratica ancora una volta ha deciso sulla vita dei compagni. Juan Alliste, 18 anni, come autore dell'omicidio di Moiano, che sarebbe lo sbirro morto, più 10 anni per il tentato omicidio dello sbirra Barca, più 14 anni per l'assalto a Banco Santander e Banco Security a Valparaíso, per un totale di 42 anni di carcere. Freddy Fuentevilla, 5 anni per partecipazione all'omicidio Moiano, più 3 anni per il concorso in tentato omicidio di Abarca, più 7 anni per rapina nel Banco Security, 15 anni di carcere in totale. Marcello Villarroel, 14 anni di prigione per l'assalto a Valparaíso, per il Banco Santander e al Banco Security. E questi erano i quasi 70 anni di carceri che ha elargito la magistratura cilena nei confronti di Juan, Freddy e Marcello. Juan è quello più colpito duramente, 42 anni di carcere, cioè non li sconterà mai, cioè, gli auguriamo di arrivare a 100 anni e passa a Juan, però cioè, se glieli fanno fare tutti è dura. E quindi è un ergastolo alla fine, 42 anni sono un ergastolo, poi non lo dicono chiaramente come spesso fanno anche in Italia, qui ti appioppano 30 anni di carcere, ne hai 50 e te ne fai, esci a 80 se vai bene, e quindi è un ergastolo questo. Questa era per quanto riguarda la notizia, quindi sul caso Security. Ricordo che c'è un sito per chi vuole, però penso che non è nemmeno più aggiornato, è stato tutto un fuoco di paglia quel sito sul caso Security, è molto bello. Però chi vuole vedere tutto l'andamento del processo come è andato, dopo vedere le sentenze e tutto il resto non ci sono più. Ora ci ascoltiamo un brano, loro sono Flashfield, il brano è The Plug, e poi dopo si torna qui con un'altra notizia di controinformazione. Let me give you a little inside information about God. He's laughing his sick fucking ass off. He's a fight ass. He's a fate ass. I am the master. Flashfield con il brano The Plague. Ora sì, sto rincoglionito. Allora, si passa ancora in Germania. Stiamo facendo oggi è ping pong. Germania-Grecia, non è la partita dei mondiali di calcio. Se la stanno giocando i compagni a furia di attacchi, stanno attaccando da tutte e due le parti e vanno sempre a segno. Ci sono un bel po' di gol, infatti, un po' di punti le hanno presi i compagni, le hanno messi a segno i compagni, quindi una mondiale tutto particolare, altro quello che organizza la FIFA e Brasile, che fa, cioè, ha creato miseria. Ho letto che è crollato anche un ponte costruito per i mondiali di calcio, un ponte che uno di quelle strutture che è stato iniziato e poi è stato portato a termine la costruzione in modo veloce ed è venuto giù e purtroppo chi è che ci rimette le penne? Ci rimette le penne i poveri disgraziati a Belo Horizonte che si trovano a passare là sotto grazie alla FIFA e ai mondiali di calcio. Allora, parliamo dell'altro mondiale, quello Germania-Grecia, che si sta giocando ad auto bruciate. Allora, Berlino, 2 luglio, auto del console greco incendiata. Testo rivendicativo. Non chiediamo altro che la distruzione della bestia che mantiene il sistema in vita. Il governo democratico sta colpendo molto duramente. Durante la crisi rivelano il loro vero volto. Un volto che pieno di entusiasmo umilia, tortura, imprigiona e uccide le persone. Una faccia che sorride felicemente davanti alle telecamere del mondo, mentre allo stesso tempo impiega migliaia di sbirri dietro l'angolo per sopprimere ogni resistenza. Ma non sono soddisfatti per questo. Dopo aver sconfitto la resistenza nelle strade, i cani del sistema stanno dedicando i loro sforzi per sconfiggere la resistenza residua nelle prigioni, isolando i prigionieri. L'autorità utilizza la paura costante della grande maggioranza silenziosa per vendicare coloro che hanno bruciato la Grecia nel mese di dicembre del 2008. Gruppi di guerriglia che hanno scatenato la rivolta stanno causando stati d'ansia per i signori costipati di Bruxelles. La loro reazione tardò a venire e fu molto energico. Insieme con la Troica hanno inviato un gruppo di specialisti di antiterrorismo ad Atene, col fine di affrontare lo spirito di resistenza una volta per tutte. Quindi un nuovo addestramento per i poliziotti è stato molto presto redditizio. I cani potrebbero semplicemente usare i loro circoli per i principianti, ma hanno scelto di adattarsi al contesto ideologico chiamato fascismo, in modo completamente schietto. Una coesistenza armonica dove la sete di potere e grosse sacche democratiche fanno uso delle bande fasciste. La creazione di carceri di massima sicurezza di tipo C è solo un altro passo verso il completo annientamento di coloro che sono cresciuti stanchi di essere sfruttati. Noi non vogliamo restare indifferenti mentre queste cose accadono, come molti altri che hanno smesso di combattere. Noi facciamo. Quindi abbiamo deciso di fare una visita a uno dei loro lacchè, nella chieta di Wilmsdorf. Siamo solidali con gli scioperanti della fame nelle prigioni greche. Noi con la presente ricordiamo l'assassinio di Ilia Carelli, ucciso dagli assassini chiamate guardie carcerarie. E poi finisce con una citazione della cospirazione delle cellule di fuoco, fazione dei nichilisti. Il perdente di questa guerra è colui che va a casa, non un passo indietro, nessun ritardo, sovversivi di atti nichilisti. E questo era il testo rivendicativo di questa azione avvenuta a Berlino, in Germania, sempre anche questa volta in solidarietà con gli scioperanti, degli ex scioperanti della fame in Grecia. Ora ci ascoltiamo un brano Hardwire, il brano è Test of Flesh, e poi dopo si torna qui e si legge l'ultima. Ha segnato la Germania, ora deve pareggiare la Grecia. Questo per il mondiale extra FIFA. With horror and throbbing with it. Four sounds are better than three. Why don't you spend all your money for TC? E allora, ovviamente, noi si finisce alle 18:10, all'orario della caduta di connessione. Ricordo gli indirizzi utili per radiazione. Intanto va all'ultimo brano, quello che avevo mandato. Io stavo parlando, parlava a vuoto, quindi... Insomma, allora, l'appuntamento è per lunedì con la diretta d'azione, quando ci sarà qui Marcello con me. Si leggerà I Sabotatori di Edward Debbie, si leggerà Nazero 13, il racconto che sto scrivendo io, in solitaria, che sarà benefit per i detenuti da ottobre, si spera da ottobre, quindi... giusto prima di chiudere, visto perché ce l'hanno fatta alla fine, ce l'hanno fatto proprio all'ultimo secondo, maresciallo, appuntamento a lunedì. Radio Azione. Good Spirit. Controinformazione, letture, provocazioni, musica. Radica nuova passione. Radica nuova passione. Radioattivazione.org. Radioazione. Radioazione. Radioazione.